o scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelle che se lo cerchi su Google, quello si rifiuta. E per visualizzare un risultato devi aggiungere per favore. Vuoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelle che provare a cantare sempre senza successo, per colpa di un testo composto da parole inventate e frasi senza senso. Vuoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelli che per scriverli non bastano le lettere dell'alfabeto, ce ne vorrebbe uno nuovo, tipo quello cambogiano che ne ha 74. Ma basterebbe che questa canzone così strana arrivasse a te. Vuoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelle prodotte dalle case indipendenti con quattro soldi, che suonano così alternative da piacere ai millennials alla faccia delle major. Vuoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelle che prendono spunto da nomi di sostanze come il paracetamolo, anche se alla fine quelle che ci ispirano sono solo quelle stupefacenti. Scrive una canzone con un titolo lunghissimo di quelle che la critica esalta perché parla di cose assurde, ma la realtà è che è un trucco per coprire la metrica. Amen, suona meglio della commerciale. Ma basterebbe che questa canzone così strana arrivasse a te. Puoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelle che componi solo se sei lucidamente folle, oppure hai camminato una notte sulle acque dei navigli. Puoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo di quelle facili da cantare, con la stessa spontaneità di un salto in autogrill ad uno sconosciuto. Puoi scrivere una canzone con un titolo lunghissimo anche per te, che ha un sacco di cose da dire, ma poi va a finire che ci parliamo e stiamo solo spostando l'aria. Ma basterebbe che questa canzone così strana arrivasse a te. E basterebbe che questa canzone così strana arrivasse a te. Arrivasse a te.